Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. «24 mattino» di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire et pugnare. Poche fotte. Abbiamo detto 1979, 1000 deiotti, 1000 parlamentari sono troppi, noi li vogliamo ridurre, noi li vogliamo ridurre, voi volete tagliargli la paga ai senatori, noi li cancelliamo, è una differenza di sostanza e non c'è demagogia. Io gli pregherei, Beppe Grillo, dopo di andare non solo qui, ma anche in un altro colle, qui vicino a Roma, a parlare di auto blu, di consulenze, di tagli di costi inutili, perché altrimenti qui non si può solo fare l'opposizione, bisogna anche saper governare ed essere onesti con i propri elettori, dicendo che cosa bisogna fare con i costi quando si compete. C'è una constatazione di capire che cosa è, ecco, il simbolo del Parlamento, che cosa è diventato. Lì si rumina la democrazia. Dovunque si muove il Presidente del Consiglio gli arrivano pomodori addosso e senza forze di polizia verrebbe malmenato dai cittadini che lo odiano perché è un arrogante, perché sta sui coglioni a tutti, probabilmente anche a se stesso. Sta sui coglioni a tutti questo, sta sui coglioni a tutti, è la verità. Di Battista l'ha detto 3 volte perché non si fosse capito, per chi non avesse capito bene. Com'è la questione secondo Di Battista? No, giusto perché la tocca piano, come direbbe il mio amico, non leggerlo su Twitter. Signori, sapevamo che sarebbe finita così, con un po' de caciara. Sta sui coglioni a tutti, probabilmente anche a se stesso. Vabbè. Sta sui coglioni a tutti questo, sta sui coglioni a tutti, è la verità. Beh, questa è la verità infusa di Di Battista, ancora manca. Comunque sapevamo che sarebbe andata a finire così, lo avevamo già anticipato ieri, discussione, buttata in caciara, demagogici, populisti, al di là di tutto, al netto di tutto, poi rimane la domanda alla quale gli italiani vorrebbero una risposta, ma... tagliare del 50% gli stipendi dei parlamentari era una cosa buona o era una cosa no buona? Sì o no? Ecco, poi lo può proporre anche Carmelo Lauricella in regia, lo può proporre anche Lorenzo Nespoli in redazione, ma sì o no? Bah, tutto rimandato in commissione. E vedremo che succederà. Babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B solo, la seconda con 2 B. Può essere, può essere. Come la questione della rivolta degli abitanti di Gorino, in provincia di Ferrara. A Gorino dovevano arrivare 12, sono certo, sono sicuro, innocue donne. Immigrate, e a Gorino la gente è andata in piazza, le barricate, non le vogliamo. Tutto è nato per il classico cortocircuito di uno Stato che non sa gestire queste cose, non le sa gestire, ormai è ufficiale. Sapete cosa hanno volevano fare a Gorino? Hanno requisito un ostello, tra l'altro gestito da una cittadina serba, che oggi infatti intervistata su qualche giornale dice: ma Io razzista? Io sono serba, sono venuta qui, sono stata accolta da questa gente, figurarsi se considero questa gente razzista. No, mi è arrivata una lettera, mi avevano requisito l'ostello. E allora io ho mobilitato un po' le persone del paese, ci conosciamo tutti. Per cui io non lo so, sicuramente le immagini sono brutte di questa idea di non accoglienza, ma può uno Stato arrivare da una cittadina a dire scusa, guarda, il tuo ostello è requisito perché serve a noi? Perché lo Stato non è capace di gestire, non sa dove mettere le persone. E poi si creano le barricate, che è stato un modo anche per mangiarsi delle salamelle per strada, mi sembra di capire dalle immagini, salsicce sulla brace e via, un po' di casino, cacciara e alè, anche lì. Sono le 6:36 minuti, questo è 24 mattino e voglio subito salutare la nostra Paoletta Rossa. Saluzzi. Saluzzi. La vogliamo vivere più social. Più social. Ecco che con la nuova stagione inizia a casa di Paola. Eccola qua. Ormai siamo tutti a casa di Paola, ripostiglio, macchia del caffè, tutti sul balcone, terrazzo. Caterina che fa le fusa. Non sbirciamo in doccia. Perché c'è il momento anche della doccia, no? Possiamo rimboccarle le copertine. Garantisco, mi lavo, ma insomma, tutti a casa, ma non dentro. Non tutti insieme, e poi non tutti insieme. Sì. Carolino, io oggi mi dedicherò soprattutto alla storia di Goro e Gorino. Che già mi piace, Goro e Gorino. Io non sapevo dell'esistenza. Sicuramente, da una parte, il capire dove mettere le persone, dall'altra ieri ho sentito delle cose agghiaccianti della serie, sicuramente. Ma dove sono i mariti di queste? Io il marito ce l'ho, giuro, l'ho sentito con le mie orecchie. Sai, poi quando si dà voce anche un po', al populismo spiccio. No, questo non è accettabile in un paese civile, questo non è accettabile. Non stavano arrivando 1500 persone, stavano arrivando 12 donne, da quello che ho capito 8 bambini. Allora... Sì, una incinta di 7 mesi, credo. Sì, oggi cercheremo, come dicono quelli bravi, di capire meglio che cosa sia successo. Sì. Così poi ognuno trae le proprie conclusioni. Vabbè, anche tu troverai magari qualcuno. Ah, mi chiedono cosa ha fatto ieri il Milan. Non lo so, lo chiedo, adesso ne parliamo non del Milan ma di Gorino. Lo chiedo a Luca Dini cosa ha fatto il Milan, lui che è informato su queste cose. Caro direttore di Vanity Fair, buongiorno. No, buongiorno, ma non saprei. Com'è andata ieri? Non saprei. Mi dicono cacciara anche a Genova, c'è stata cacciara ieri anche a Genova. Sì, vabbè, sì. Genoa-Milan 3-0, giusto così, tre pere, e noi ripartiamo da dove dobbiamo puntare, il sesto posto. E Ale, io non posso parlare. Tu non puoi parlare, Luca Dini interista, non mangia neanche il panettone, come si suol dire l'allenatore dell'Inter. Il vero comunque esperto del Milan, scusatemi, è... mio figlio, sì. Gli ho lasciato un messaggio. Un bimbo d'oro, ho avuto il privilegio di conoscerlo, per cui il vero esperto di Milan. Anzi, inviterei i cinesi a prenderlo in consiglio di amministrazione, questo bambino, perché io ho lasciato un messaggio di quelli un po' farlocchi. Mattia, abbiamo perso, ma siamo ancora secondi. Non gli ho detto che gli altri giocano stasera, ma lo scoprirà, insomma, le cose un po' con calma. Non è che uno deve proprio snocciolare tutto. Il dato di fatto è che siamo ancora secondi. Puoi andare a scuola e urlarlo forte. Bravo. Allora, apriamo il Parlamento, forza. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Adesso parliamo di Goro e Gorino, però c'è una signora che in questo momento tutti noi vorremmo essere, anche noi uomini. Ciao, c'è la segretaria. Andiamo un po' ai tempi di Luca Dini con questa. Tutti noi vorremmo essere in questo momento, non per gli ultimi 40 anni, la segretaria del signor Bernardo Caprotti, patron di Esselunga. Che ha ereditato, signore e signori, caro Luca Dini, 75 milioni di euro. Sì. Il bel cia-cia-cia della segretaria, che bello. Però, insomma, sono tanti 75 milioni, però tu avresti voluto fare la segretaria di Caprotti per questi 40 anni in cambio di... Posso dire? No. Ne valgono di più 40 anni. Voglio dire, è fantastico, incredibile, straordinario, però insomma doveva essere anche un signore un po', diciamo, un po' così, non facilissimo da gestire. Col suo caratterino. Pensate che ha inventato la Fidati Card, la segretaria, la Fidati Card. Paola, tu queste cose non le sai. È stata lei, la Fidati Card. Cara Paola Saluzzi, queste cose tu non le sai, l'S Lunga non c'è. C'è a Roma l'S Lunga? Dunque, non so se sia già arrivata, però so che è, diciamo così, un prodotto che ho trovato più spesso a Milano, no? Certo. Io trovo che questa storia sia, oltre alla cifra iperbolica, sia una storia molto bella di fedeltà lavorativa. Sì, è vero. Che probabilmente oggi non esiste, non dico non esisterebbe più, perché invece segretarie, cioè una splendida segretaria che diventa poi assistente, diventa braccio destro, generalmente sta accanto ad uno splendido direttore o comunque a un patron che sia in grado di ingenerare anche questo tipo di fedeltà e di dedizione. Sì. Sicuramente 48 anni passati chiudendo l'ufficio dopo che il capo è uscito. Perché lei lo dice, io aspettavo sempre un minuscivo, un minuto dopo il capo. È una vita intensamente dedicata, alla quale poi corrisponde una donazione post mortem da film, no? A volte succede. Certo, mi immagino, non so, la collaboratrice della segretaria, che magari anche lei è stata 30-35 anni a fianco di Caprotti e manco, non lo so, forse una fida di carta gli sarà arrivata in ereditarda. Esatto. Non so, io in devo dire, a costo di sembrare, insomma, non cinico, impopolare, dico che sarebbe bello un paese dove magari le segretarie vanno a casa un minuto prima del capo. O magari due ore prima del capo. Disse quello che la terrà lì a dormire anche di notte. Qui. No, io devo... assolutamente. No, scherzo, ovviamente conosco Luca Dini. No, queste cose che dico le applico. Ci sono segretari che hanno famiglie, bambini, bisogna anche che... A me questa gestione familistica così non ti piace, va bene, non ti piace. Ma io mi rivolgevo sicuramente ad una, sappiamo che Luca Dini non è così, piuttosto, voglio dire, è uno che manda a casa le persone prima e chiude lui l'ufficio, perché è un super direttore, però mi riferisco alle persone che hanno comunque una capacità avvolgente di coinvolgere le persone, di essere che pretendono dalle segretarie appunto che anche loro non abbiano una vita, perché loro non ce l'hanno. Comunque, invece, cara Paola, visto che tu ne parli alle 10, ti informo che secondo il Messaggero Alfano è infuriato e potrebbe saltare il prefetto Tortora. Chi è il prefetto Tortora? Quello di Goro e Golino, insomma. Ma vi pare normale, al di là delle assurdità che sono state dette, una gestione del genere? Cioè una gestione che porta persone di un paese la cui esistenza io ho scoperto ieri, lo ammetto, a fare le barricate, a dire ma siamo arrivati a questo punto, cioè, dobbiamo capire però se siano le persone che vogliono fare le barricate, da quanto tempo fossero informate, chiaramente ora è tutto da scoprire questo, no? Sì. Da quanto tempo si sapesse di questa cosa e capire il perché, no? Capire. Poi sicuramente sul dove vengano messe le persone, questo è un dato di fatto, bisogna ragionarci. Però ripeto, capire, noi oggi avremo tanti testimoni e testimonianze dall'una e dall'altra parte e vedremo. No, ma certo, però un sistema che porta, non so Luca Dini cosa ne pensi, ma un sistema Stato, magari, voglio dire, che porta la gente in piazza, è un sistema comunque che vuol dire che ha qualche fallo. Il sistema fa falle da tutte le parti. Detto questo, allora, io vengo da un paese, originariamente da un paese di 350 abitanti, dove esiste e c'è stato questo problema, ok? Mm. Allora, mi fa rabbia quando vedo le statistiche generiche, perché bisognerebbe sempre sapere non quanti immigrati assorbe Milano, bisognerebbe sempre capire quanti immigranti pro capite assorbe un comune, perché è vero che quando tu hai pochi abitanti vedersi arrivare 50 immigrati. Lì per esempio sono in 400 a Gorino, quindi può essere un problema. Detto questo, dappertutto, sicuramente anche a Gorino, chi fa le barricate è uno stronzo, perché non sono tutti, sono alcune persone stronze, è sempre così. La minoranza rumorosa, com'è l'editoriale? Vuoi dirlo come Di Battista? Perché Di Battista l'ha detto tre volte. Non so, no, vabbè. No. Tu solo vorrei due, tu solo due, ma è abbastanza chiaro, va bene, è abbastanza chiaro. Va bene, però vedremo che succede. Sentiamo Alfano, Alfano che si vergogna, Alfano che si arrabbia. Di fronte a 12 donne di cui una incinta, organizzare i blocchi stradali sia un qualcosa che non fa onore al nostro paese. Non fa onore al paese, certo, secondo me non fa proprio onore tutta la gestione di un paese. Non fa onore proprio tutta la gestione. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi riprendiamo. A Milano mi voglio sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Proposta giusta quella di Brunetta, ma chi guadagna 2 milioni di euro l'anno? Cosa facciamo? Glieli diamo? Punto interrogativo. Ma quando il Parlamento legifera su interessi dei parlamentari, non ci vorrebbe un organismo terzo che dia l'ok o meno? Io non ho mai votato 5 Stelle, ma questa volta li voterò di sicuro. Ora dimmi come fa un deputato a votare per ridursi lo stipendio. È come chiedere a Rocco Siffredi di tagliarsi il cazzo. Non è che gli convenga tanto. No, no, ma obiettivamente sono cose innaturali. Però devo dire, Crozza ultimamente ha avuto questa deriva così. Paola Saluzzi, non ti chiederò un commento su questo. Ma io la ringrazio per questo. Dottor Milan, dottoressa Saluzzi, il prossimo argomento? Esatto. Questo è. Comunque, a proposito, come sta il frigorifero di casa, cara Paola Saluzzi? Tu che stai a Roma, lo vedi a girarsi? Lo vedi a girarsi per casa con delle... Guarda, nottetempo ho sentito dei rumori. Mi sono alzata, l'ho visto vicino alla porta, gli ho detto torna al posto tuo. Esatto, si è ribaltato e ti ha barricato in stanza. Era al posto tuo. Il gomblotto dei frigoriferi. No, allora sì. che ci sia, allora, a parte non vengono più raccolti da tempo. No, però spieghiamo, ieri Virginia Raggi ha fatto questa intervista, tra l'altro al 5 Stelle sono furibondi oggi, scrive sì. I giornali, e ha parlato per tre volte, ha detto al direttore di Repubblica che hanno dato uno strano aumento di frigoriferi buttati per strada. Ma a che cosa è dovuto? Non lo so. C'è qualcosa di strano, il complotto dei frigoriferi. Dica dottoressa Saluzzi. No, voglio dire, l'attitudine a gestare le cose. Questa è poi voi ve lo ricordate, ma anche Milan, che è un ragazzo giovane, sì, se lo ricorda. Sì. C'era un tempo l'attitudine a Capodanno, sì, a buttare di buttare le... dalla no? finestra i piatti che sì. non si volevano più, cioè sì. pur di fare Capodanno. Sì, per forse la... a Roma, io non l'ho mai fatto, forse a Roma. Volavano forse... lavatrici, volavano, mi ricordo, bambina, che c'erano queste fotografie inquietanti. Di questi oggetti. Luca Dini l'ha fatto tante volte nella sua infanzia. No, non credo, certo, non, come no? Ha lanciato. Non lo vedo lanciare la. Non lo certo, lanciare muoiono la le cose vecchie, via, fuori dalla e finestra. Cioè. Sì, tu, però se vai ai Navigli anche a Milano non è che scherzo. No, cioè i frigoriferi. Ecco, ma sti però, cacchio di frigoriferi, porcaccia miseria. L'idea del complotto, lei non ha detto la parola complotto, questo va detto, però insomma poi ha scatenato però. Chiaramente. Un po' di ironia, un po' di ironia. Però amici, fatemi... No, che dici Luca? Non si può dire c'è qualcosa di strano. Dai. C'è qualcosa di... Cosa vuoi dire? È chiaro che la gente subito pensa al complotto di questi frigoriferi. No, ma è quello che ha detto lei. Certo. No, assurdo. Dai. Allora, dobbiamo andare in Cina, aspetta! Dobbiamo andare in Cina! Oggi, this is not a test. This oggi is pensate che abbiamo scovato il nostro ascoltatore dell'estero. Che è il nostro Raffaele, nostro perché io vi sento talmente vicini. Raffaele, buongiorno, dove stai tu? Buongiorno a te Milan, buongiorno Italia. Vai che bello. A Shanghai. Che sì, a Shanghai. C'è inquinamento a Shanghai? Cosa? Non ho capito. Inquinamento, come va inquinamento? Piove molto adesso, perciò è tutto abbastanza... Porta via sta tutto. Sta iniziando un po' il freddo, perciò... Si sta abbastanza bene. E adesso. Che fai a Shanghai, Raffaele, oltre ad ascoltarci sempre fedelmente? lavoro per un'azienda italiana che ha aperto la sede qui 3 anni fa. Facciamo automazione industriale. automazione elettrica di impianti e macchine. Niente, si lavora. Sono un trasfertista perenne, perché faccio avanti e indietro dall'Italia. E di che si parla lì in Cina? Che cosa, qual è la cosa di cui si discute più in questo momento, in questi giorni? Ma, diciamo, qua a Shanghai le cose che posso vedere io stanno cercando di mettere a posto un po' il traffico. Il traffico il tipico problema di Shanghai, il traffico. Sì, no, qua è l'anarchia più totale. Il delirio. Raffaele, di mettere un po' a posto. Noi oggi dobbiamo un po' correre perché il tempo fugge, ma è stato bellissimo sentirti da Shanghai. Ti mandiamo un abbraccio, te lo manda anche Paola Saluzzi, Luca Dini, è il nostro patrimonio, i nostri ascoltatori, anche quelli all'estero, cara Paola qua, che ci ascoltano da ovunque nel mondo. Sì, è il grande potere della radio. Esatto. Allora, mentre io ricordo che alle 10 appunto Paola Saluzzi parlerà di Goro e pure di Gorino, c'è Mica che mi guarda dalla prima pagina. Che ha fatto Mica di nuovo? Ma no, avrà un programma. Cioè... Ah, avrà un programma. Tu lo sai che mi devi informare su tutto. Non farlo con quella faccia stupita, come dire. Tu mi devi dire le cose, l'ABC. Avrà un programma. Dove? In TV, immagino. Avrà un programma. In TV, quindi immagino. Sì, in TV, in Rai. Ah, vabbè, in TV, il Rai, Mica, che quindi è in prima pagina di Vanity Fair, in copertina di Vanity Fair. Ma voi, come sapete, sta riscuotendo un grandissimo successo e quindi dobbiamo concludere anche oggi con la nostra rubrica Lo psicologo di D'Alema. Guardate che io voglio delle diagnosi precise. Allora, D'Alema, sentite. Ho visto su Facebook, da parte di qualcuno, una foto di Obama che abbraccia Letta, una foto di Obama che abbraccia Cameron e una foto di Obama che abbraccia Renzi. Auguri. Porta sfiga Obama. No, questo lo dice lei, io non mi permetterei mai di insultare il Presidente degli Stati Uniti, anzi la rimprovero. La rimprovero. Caro dottor Luca Dini, sediamoci sul lettino e ci dica qual è il problema, secondo lei, se la ne ha... La sindrome è del rododendro. Del rododendro, che è colui che rode, sì. Immagino. Rosica perché corrode, rododendro, mi piace questa onomatopea. Bella, bella. Cara dottoressa Saluzzi, concorda con l'analisi del collega? Con l'analisi del luminare Luca Dini o... Io voglio che venga istituito da... 24 mattino con Alessandro Milan un premio speciale a Luca Dini. Sì. Perché cosa? Punto... Premio psicologia, psicologo dell'anno? No, un premio speciale perché voglio dire il più British dei direttori milanesi napoletano. Esatto. A questo spirito che voglio dire, ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità, è meraviglioso. La sindrome del rododendro, questa effettivamente non è male. Allora vi saluto, vi ricordo Vanity Fair in edicola e Paola Saluzzi alle 10 e ciao. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. È arrivato Milana Lino, legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. E allora eccoci qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, tutti coloro che mi hanno mandato una bella foto di tre pere, li ringrazio questa mattina, ma per noi è una scoppola molto salutare quella col Genoa, quella che ci riporta alle nostre orbite, alle nostre quote di crociera verso un tranquillo sesto, settimo posto. Quello meritiamo e quello avremo. E a lei. Allora, cari ascoltatori, siamo pronti nella rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Avanti! Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh?